che si è tolta la vita. Non so, volevo dire Mario perché magari può essere un po' pesante per qualcuno, perché è vittima di transfobia, perché aveva deciso di vestire dei panni diversi, di insegnare agli alunni un modo corretto e giusto di vivere nella diversità, e non gliel'hanno permesso. Non gliel'hanno permesso perché è partito un odio dal direttore scolastico, dalle forze politiche, e man mano è stata esclusa dalla scuola, perché non è che c'è una legge che può licenziarti se tu hai un pubblico impiego, ma man mano l'hanno relegata a non avere contatti con i suoi alunni, che li amava tantissimo, e questa cosa gli ha distrutto la vita. Perciò ci faceva piacere dedicare questo incontro a lei, alla sua memoria. Siamo anche in radio, perciò salutiamo anche gli ascoltatori da casa, e ringraziamo Antonia. Grazie di essere qua, e grazie soprattutto a Camille per gli amici di Zampish, perché lo conosciamo così, che ci ha fatto incontrare te, ci ha messo in contatto e ci ha raccontato la tua storia, perché nessuno ti conosceva. Grazie. Sì. Quindi finisco di parlare io e ora ti do il microfono. La tua storia è bellissima, prima di tutto perché parto da una roba autobiografica anche mia: sei pugliese come me, quindi ci stanno anche altri pugliesi in sala, la provincia di Foggia. Perciò tutta la prima parte che parla del tuo trasferimento qui e parla di una realtà che magari, cioè che a me era familiare, che magari alle persone che sono qui no, a me ha fatto commuovere. Non so se te la faccio raccontare direttamente a te. Intanto grazie di questo invito, di questa presentazione. Mi fa molto piacere che questo incontro è a memoria di Chloe, e di questa ragazza che si è suicidata mettendo fuoco al suo camper, perché appunto, come dicevi tu, 5 anni fa lei ha fatto il coming out all'interno della scuola come donna, davanti agli suoi colleghi e alunni, come insegnante. Poi è stata poi demansionata, messa in segreteria, e quindi, come dire, anche lì questo demansionamento gli ha creato un crollo psicologico sicuramente, e poi appunto, come dire, allontanata definitivamente al che appunto lei da sola ha fatto questo atto di coraggio, perché ci vuole veramente un coraggio, come dire, darsi fuoco all'interno poi di un camper, no? Di una casa propria. E che dire, io sono Antonio Monopoli, e quest'anno ho 50 anni, quest'anno compio 50 anni, ho iniziato il mio transito medicalizzato nel 94, quando sono arrivata qua a Milano, e io invece nasco a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, un paese della Puglia di 70.000 abitanti, dove c'è il mare, dove io trascorro tutto il mese di agosto giù in Puglia per le vacanze, e quindi a breve partirò appunto per giù in meridione, in Terronia, perché sono una terrona, mi sento. Che dire, passaggi che tu hai letto, beh, io dico sempre che ho assaporato la discriminazione ancora prima che dicessi al mondo quella che ero. Perché? Perché ora mi vedete bionda perché devo coprire i capelli bianchi, però io nasco come rossa, anzi pellicarota, arancione, infatti la copertina del libro è rossa, capelli rossi, ricci. E quindi appunto, come dire, quando ero piccolo i compagni di scuola non si volevano avvicinare a me perché io sono piena di lentiggini, tra un po' il sole grideranno vendetta le mie lentiggini, e quindi i compagni di scuola non si avvicinavano, perché dicevano: "Oddio santo, mi attacchi la tua malattia!" E gli facevo: "Ma no, ma non è malattia, cioè è così, cioè è la pelle." E quindi dicevo, ancora prima di sbucare nel mondo, di fare il mio coming out, io ho subito questa discriminazione da parte dei compagni. Poi appunto questa cosa mi ha un po', come dire, per certi versi, io sono stato sempre un ragazzino timido, schivo, se mi davano un calcio me lo pigliavo, mi stavo zitto e anzi mi facevo da parte più che altro, e quindi poi boh, niente, ho creato tra me e me, ho cercato di creare degli amici di fantasia, ho creato un mio mondo. Io sono molto appassionata di fatine, di gnobi, di druidi, infatti una piccola collezione di fatine a casa mia, come dire, non so cos'altro dire. Quali passaggi tu ti sei rivista? Era interessante la parte in cui racconti che non riuscivano a capire tu cosa avessi, perché magari i tuoi genitori, la tua famiglia erano di fronte a una situazione sconosciuta, ma sconosciuta perché non avevano gli strumenti, cioè non sapevano da che cosa dipendesse, quindi lo dico tra virgolette, capivano che eri strana, ma non riuscivano a capire perché, quindi ti facevano girare medici, manicomi. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché effettivamente era visibile, solo che non sapevano, e la prima cosa che fai è che ti rivolgi al medico, ti rivolgi. Poi il manicomio di Biceglie era abbastanza conosciuto, perché era uno dei più duri, comunque un po' anche un po' forte, così. Sì, se vuoi raccontare un po', sì, certo. Allora, parliamo appunto prima degli anni prima dell'82. Perché 82? Perché in Italia nell'82 hanno approvato una legge, la 164, appunto dell'82, per il cambio di sesso, per il riconoscimento dell'identità dopo l'intervento di riassegnazione chirurgica sessuale. Ciò significa che un gruppo di donne trans, prostitute, con all'epoca la leader del MIT di Milano, il Movimento Italiano Transessuale, la Pina Bonanno, una leader, un'attivista, tra l'altro siciliana, con un gruppo di donne trans che avevano fatto l'intervento di cambio di sesso, sono andati alla piscina comunale in Piazza Elotto per rivendicare il loro diritto di essere riconosciute come donne dallo Stato, perché fino a poco prima dell'82 le persone trans, quando venivano, come so, fermate per strada, veniva dato l'articolo 85 per mascheramento, venivano messe in carcere, in manicomio, come soggetti pericolosi a se stessi e alla società. E quindi io appunto nell'82 avevo 10 anni, appunto, sono nata nel 72, 10 anni, però appunto in casa mia in Puglia all'età di 8 anni i miei genitori vennero a scoprire che io non ero un bambino come tutti gli altri, che quando camminavo schiccavo, sculettavo, quando parlavo gesticolavo, giocavo alle bambole con le mie cugine. E questa cosa per un parente era una cosa non normale, ecco, non normale, allarmò la mia famiglia, i miei genitori, al che disse: vabbè, andiamo al medico di base, magari appunto ci può illuminare il medico di famiglia, no? E il medico di famiglia suggerì a mia mamma e ai miei genitori di portarmi appunto a questa, oggi si chiama clinica psichiatrica, all'epoca si chiama manicomio, dove rinchiudevano di tutto e di più anche le persone down, se vogliamo, no? E quindi andammo in questo manicomio a Bisceglie, Donuva, si chiama questo appunto manicomio. Incontrammo questo professionista, questo medico, dove mi mise una rete in testa, mi fecero l'elettrocefalogramma e a un certo punto, dopo aver visto i vari zigzag del cervello, il professionista disse a mia mamma, disse: guardi signora, che qui per togliere la parte malata possiamo intervenire con una delle due tecniche, o il lavaggio del cervello o la lobotomia per togliere la parte malata. Però signora, sappi che può essere che quando si sveglia non riconosce neanche più i propri genitori, quindi deve ricominciare di nuovo dai 0 anni. Quindi dovete rieducare poi il suo figlio a dire mamma, papà e tutti appunto, cioè quindi cancellata completamente la memoria di 8 anni. Mia mamma vide la pericolosità delle tecniche e a un certo punto disse: guardi, ne parlo con mio marito, cerco di capire un po' il da farsi, poi capiamo. Infatti diciamo che il professionista all'epoca disse a mia mamma che doveva poi firmare un documento, perché poi ogni responsabilità ricadeva ai genitori, non al professionista, quindi un po' come se si volevano lavare le mani. E poi mia mamma appunto poi ha cercato poi, come dire, di trovare altre alternative, ma più che altro per cercare di capire lei, per avere appunto, come dicevi tu, strumenti, perché per mia mamma, fino a poco prima che non le mettessero la mosca al naso, come si vuol dire, no? Cioè, l'insegnamento per mia mamma era normale, non è che appunto, cioè, e qualcuno in famiglia gli ha detto che non ero normale, e quindi mia mamma si è attivata per cercare di capire un po' come poteva aiutarmi, come poteva starmi vicino. E quindi poi appunto da lì è iniziato il mio tour di psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, sessuologhi, consultori familiari, cattolici, perché la maggior parte prima erano tutti cattolici, quindi già adesso si fa fatica a trovare dei consultori laici, figuriamoci appunto negli anni 80. E io però la prendevo come una punizione, io andavo davanti a questi professionisti, facevo scena muta perché dicevo: ma questi, ma che vogliono da me? Cioè, nel senso, perché mi chiedevano i miei sogni, mi facevano vedere delle macchie, i testi che appunto poi sono i testi Rorschach, e c'è ste macchie, ok, va bene, i sogni, cioè i miei hobby, quali sono i miei hobby, però appunto, cioè, cercavano appunto di studiarmi, di capire un attimino un po' la mia identità, ovviamente, no? Però come dire, per me era, dicevo, ma io qui, cioè, infatti facevo scena muta, perché poi, come dire, cioè io non mi sentivo così diverso da tutti gli altri bambini, cioè nel senso, non certo, non sapevo che l'anatomia facesse la differenza. Infatti mi ricordo che mio papà mi diede un suo libro dove appunto c'era appunto scritto, dice: leggi questo libro, magari appunto ti acculturi. e quindi c'era appunto tutta l'anatomia dell'uomo e della donna, gli usi e costumi, il vestiario, i lavori, tutta questa cosa, cioè, molto binaria, che io sì, vivi ma non lessi mai. Ce l'ho ancora lì, ce l'ho, nel senso, sì, ce l'ho per ricordo, ce l'ho, però non l'ho mai letto, cioè un libro vecchissimo. E il fatto sta che poi io ho iniziato, poi, come dire, all'età di 10 anni, proprio all'età della comprensione, e mi sono messo un po' alle cerche del mio gruppo di appartenenza, perché qualcuno mi aveva detto che non ero né uomo né donna. Beh, qualcosa dovrò essere, cioè, nel senso, perché se non sono né uomo né maschio né femmina. Quindi mi si è alla ricerca di un gruppo di appartenenza. All'epoca trovai questo gruppo di appartenenza gay che mi adottarono con il nome Olimpia, perché ero olimpionica, molto alta, e quindi Olimpia, che per me va bene, cioè. Però in questo momento io vedevo che c'era un qualcosa di diverso, no? Perché dicevo, ma è strano, adesso come adesso non è più strano, ovviamente, però all'epoca per me era strano. Dice, ma come, io vado alla ricerca di un uomo che ha una relazione o un rapporto sessuale con una donna? Cioè, io gay e gay, boh, dicevo, ma che strano, cioè, non, a me non piacciono i gay, non. Allora forse io non sono realmente gay, sarà qualche altra cosa in effetti. E poi, come dire, poi per cercare di sopravvivere giù in meridione mi sono data all'alcol, ho tentato il suicidio più di una volta, sono scappata di casa. Quindi ho fatto tribolare molto i miei genitori, cercando di, come dire, di ribellarmi, perché per me quelle erano delle ribellioni, perché dicevo, ma cacchio, ma sto paese di merda, scusate il termine, però appunto, cioè, è così, sto paese di merda, appunto, che non, cioè, nel senso, tutti ti vengono a cercare, quando poi magari di giorno ti schivano, ti sputano e ti lanciano l'immondizia, ti lanciano le pietre, ti lanciano i secchioni d'acqua, le palle con proprio pieni d'acqua te li lanciavano, che erano come dei ceffoni, quando appunto poi si spaccavano in faccia, cioè cose che appunto, situazioni in cui io dicevo, ma cavolo, ma cioè, nel senso, se per caso appunto devi comunque fare sesso, ti vengono a cercare, poi appunto di giorno, come dire, dici, ah no, per carità, tu sei il ricchione, sei il frocio, sei la feccia di questo paese. E quindi poi è così. Grazie per questa prima parte. Comunque, sì, purtroppo, soprattutto nella tua storia, ma in tante storie che mi è capitato di leggere sulle persone che hanno deciso di fare una transizione o che la stanno facendo, che la attraversano, spesso, cioè, in tutte le storie, magari è una storia di marginalità. Questo mi ha sempre colpito, che magari, come dicevi tu, sono gay, va bene, già negli anni 80 ormai era più, magari si conosceva di più, come infatti tu, il primo gruppo che hai trovato era un gruppo omosessuale. Invece il trans, la trans, chi affronta una transizione è sempre un essere che non si riesce a mettere in una categoria, e questo nella nostra società è un po' pericoloso, e questa pericolosità è molto evidente, come dici tu, alla luce del giorno, quando una persona deve trovare lavoro, deve fare una vita normale, cioè normale per, bah, poi lavorare non è che tanto normale, cioè a me è una persona che non piace, però deve sopravvivere, cioè, cosa che la spesa la deve fare, ma che era appunto l'omosessuale, c'era il cliché, la moda, l'arredamento, non lo so. Invece le storie che ho letto di persone che hanno fatto la transizione, che la stanno facendo, soprattutto voi che l'avete fatta qualche decennio fa, sono sempre storie molto molto marginali, che con tanta sofferenza, proprio tanta, e anche per te è stata difficile quando poi comunque hai deciso di venire qui, perché ti sembrava un po' meglio, ma non so, magari lo raccontiamo, se hai voglia, ecco, perché la cosa... Beh sì, e io attraversavo un periodo giù in Meridione che ero senza lavoro, e anche perché poi giù in Meridione ho fatto un po' un salto in banco, ho lavorato per 10 anni in un negozio di generi alimentari, dall'età di 7 anni fino all'età di 17 anni, quindi diciamo che oggi come oggi viene vista un po' come uno sfruttamento minorile. All'epoca non esisteva neanche lo sfruttamento minorile, però io ho fatto il garzone, e dal garzone poi, come dire, praticamente gestivo l'attività di un mio parente, di questo parente che a un certo punto si è messo un po' in mezzo alle scatole, tra virgolette. E io appunto, sì, a un certo punto poi anche lì mi sono un po' ribellata, perché mi sentivo un po' troppo, come dire, legata, cioè volevo i miei spazi all'età di 17 anni, volevo, come dire, crescere, volevo fare altro, volevo girare pagina. E poi da lì appunto ho cominciato, non so, a lavorare come barista in un bar, a fare il caffè alla macchina appunto del caffè, ma anche a lavorare in altri ambiti. Non mi sono mai risparmiata, io mi sono sempre data nel lavoro, qualsiasi cosa appunto poi cercavo, trovavo. E poi appunto, come dire, a 22 anni circa, tra i 20 e 21 anni, 22 anni, e due mie amiche del mio paese sono giù in vacanza, ci rincontriamo dopo un bel po' che io non le avevo più viste, e loro dissero: guarda che sappiamo benissimo tu che stai male qui a Bisceglie, se vuoi vieni a Milano e ti realizzi come donna, sai, però l'unico compromesso è la prostituzione. E io ci pensai dei mesi, valutai i pro e i contro, mi dissi a me stessa che se facevo questo viaggio non dovevo tornare indietro, perché tornare indietro per me sarebbe stato non una passeggiata, una bruttissima proprio, cioè, spasseggiata. Anche perché ricordo in passato che quando sono scappata di casa all'età di 16 anni, che sono finita a Roma, i miei dopo 24 ore sono arrivati a Roma perché hanno sguinzagliato le loro conoscenze, anche perché mio papà a Bisceglie era conosciutissimo, ha lavorato per tanti anni al Cinema Teatro, poi Cinema Bisceglie, e quindi faceva la maschera, conosciutissimo. Io qualsiasi cosa che facevo già, ma neanche il giorno dopo, un'ora dopo veniva a sapere ciò che io avevo fatto. Quindi sono scappata a 16 anni a Roma pensando di trovare, che ne so, la possibilità di realizzarmi, perché qualcuno mi aveva detto che questa ragazza faceva l'intranese in un locale, e invece poi ho scoperto l'acqua calda, e il giorno dopo appunto i miei mi vennero a prendere e portare giù, però appunto per me era assillante, proprio avevo proprio lo sguardo dei miei, il fiato dei miei proprio sul collo. Quindi quando mi si è ripresentata la seconda volta queste due mie amiche che mi hanno detto: guarda che però il mio compromesso è questo, perché appunto una volta diciamo che la prostituzione era obbligatoria, non c'era nessuna altra possibilità. Cioè io stessa quando sono venuta a Milano nel 94, che ho iniziato a prostituirmi, ho iniziato a vivermi come donna, E quando trovavo cercasi commessa, io ne facciavo, dicevo, mi propongo, dicevo, no, mi spiace, ma abbiamo già trovato una volta, e due, e tre. Poi a un certo punto, poi dice, beh, ok, si vede che il destino vuole che io faccia la prostituta. L'ho fatto per 10 anni, ho lavorato in strada a Mentire Gioia, di fronte a un'idea. Inizialmente ho lavorato là, poi ho lavorato al Monumentale, e qui, come dire, ogni zona era, c'era come dire, la come si vuol dire, la, ora chiamiamo la supervisor, adesso appunto non mi viene il termine adeguato, però all'epoca appunto non era supervisor, era la magnaccia. Perché in effetti a livello culturale una prostituta trans non c'è il magnaccio maschio, non è mai esistito, perché appunto c'è, cioè, com'è un uomo che protegge una trans e protegge un culo, non, cioè, quindi appunto, cioè, era scandalo. E quindi c'era proprio la pappona alla pari, la pappona alla pari, che dovevi scattarti il tuo posto. Ricordo che Città Studi non si poteva mettere piede. Città Studi è una zona molto ricca tuttora, e appunto dovevi scattarti il posto. Venivano là, era comandata, perché poi ogni zona c'era il proprio, c'erano le comandanti, c'erano. Città Studi era gestita, comandata dalle siciliane. C'era una che la chiamavano la sanguinaria, che lì veniva e ti faceva proprio fuori a pili catene, manganellate, eccetera. Il Monumentale era la zona di donne trans calabresi, anche perché negli anni 80-90, ma anche 70, diciamo che le trans che sono emigrate qua al nord sono appunto le napoletane, le calabresi, le pugliesi, le siciliane, dove appunto poi si sono fatti il loro posto, comandavano il loro posto. Poi nel 90 poi sono arrivate qui in Italia le sudamericane, che hanno copiato dalle italiane. E infatti oggi diciamo che la maggior parte della prostituzione sul territorio italiano è solo ed esclusivamente sudamericana. Italiane trans non se ne vedo più. Questo perché diciamo che la cultura un pochino è cambiata, diciamo che è stata fatta tanta strada per cercare di, come dire, cambiare le cose. Io appunto sono 20 anni che sono un attivista, dal 2002 sono colei che si mette al servizio delle persone trans, e poi ha cercato poi negli anni di attivarmi e cambiare le cose, no? Infatti sono stata anche portavoce di molti Pride. La domanda che ti volevo fare, proprio questo passaggio, quando ci è scattata la molla, perché tu anche nel libro, anche ora l'hai detto, che sei una persona timida fondamentalmente, hai lavorato tanto su te stessa per aprirti, per scattarti in qualche modo, per parlare con gli altri, per portare un po' la tua voce, e mi piaceva che magari raccontavi meglio questo passaggio, perché è proprio bello. Certo, senz'altro. E niente, io 2002 incontro una mia vecchia amica, la rincontro in strada proprio di fronte alla Nuova Idea, prima la Nuova Idea, invece appunto il Palazzo della Regione, e sì, no, c'era proprio il Palazzo della Regione adesso, che c'è di fronte, dove adesso c'è tutto il prato, che c'è ci sono i palazzi là, il bosco in verticale, e là appunto c'è la discoteca la Nuova Idea. Appunto, cioè, era bellissima, perché erano proprio due sale due sale, liscio e discoteca, e lì appunto c'è di tutto, molte persone LGBT+, ma anche anziani, anziane che facevano, come dire, ballavano. E quindi io in quella piazza, esattamente in zona Restelli, via Sassetti. E quindi la rincontro, lei mi dice che sapeva benissimo che io ci stavo malissimo, perché io ho fatto sì 10 anni di prostituzione, però 10 anni di depressione, perché all'inizio per me era tutta euforia, perché iniziavo a vivermi come donna, quando scendevo in strada sembrava come di stare un po' in passerella, no? Con questi fari accesi che ti vengono a cercare, e quindi ovviamente c'è, cioè, i soldi te li tiravi su, no? Poi dopo è cambiato, da euforia è diventata depressione. Io fumavo 2 pacchetti di sigarette al giorno, vivevo la notte ma non il giorno, e quando mi svegliavo, perché vivevo di notte, mi svegliavo a mezzogiorno, alle 14, alle 15, quindi la mattina proprio non la vivevo, vivevo proprio nel il calare appunto delle tenebre, specialmente d'inverno, poi figuriamoci, cioè il giorno non lo vedevo proprio. E quindi appunto depressione, anche se poi all'età di 28 anni ho cominciato a volermi bene, ho smesso di fumare le canne, perché sono stata una cannaiola. Anzi, una volta mi invitavano a rullare le canne, che sapevo rullare bene. E ho smesso di fumare, ho smesso di bere, avere il controllo su me stessa e su quello che stavo facendo, e anche perché comunque quando scendi in strada, sai, quando chiudevi la toppa di casa tua, ma non sapevi quando e se rientravi e come rientravi. Perché la strada poi ti capitano di tutto, e quindi persone anche che ti fanno anche del male. Io ho rischiato anche, come dire, la mia vita in strada, anche in casa, perché ho portato delle persone che mi volevano poi dopo sfasciare la casa, perché appunto volevano i soldi indietro, tutte queste cose appunto, perché avevamo pattuito una cifra e quello che dovevamo fare appunto in casa. Questi clienti cocainomani fecero della cocaina a casa mia. La cocaina si sa benissimo che inibisce la sessualità, non arrivano mai all'orgasmo, non si arriva mai all'orgasmo. E questo, a un certo punto, poi mi volevano derubare e dissi: vabbè, a questo punto uscite fuori prima che chiamo la polizia, e gridai. Tornando appunto a domanda di prima, sì, nel senso che poi io ho rincontrato questa mia amica. Lei mi disse che qua sul territorio di Milano c'era un'associazione che è l'Arcitrans, con la presidentessa, la Deborah Mbiot, una trans italo-belga lesbica, che quando era maschietto era un sottufficiale dell'esercito. Quindi era alta quanto me, mastodontica, un armadione, e quindi mi disse che lei poteva aiutarmi. Io andai all'Arcitrans, che era all'interno dell'Arcigay di Milano, in via Bezzecca, e io andai appunto da lei, feci questo incontro. Lei mi indirizzò a un ufficio del comune, un centro di mediazione del lavoro, e da lì mi affiancarono una tutor, una delle borse lavoro. Quindi cercai di, come dire, cercare di uscire fuori dalla prostituzione. Nel frattempo io mi avvicinai all'associazionismo, all'epoca l'Arcitrans, e dissi a me stessa, mi viene la pelle d'oca ogni volta che lo dico, e dissi a me stessa: beh, quello che è venuto a mancare a me vorrei darlo alle persone come me. E quindi da lì ho iniziato la mia, come dire, il mio desiderio di mettermi al servizio delle persone come me, cercando anche di, che ne so, formarmi, fare un corso di counseling telefonico, fare un corso per diventare una peer educator in quanto trans, in quanto ex prostituta. Ho fatto un corso come facilitatrice dei gruppi di automutuo aiuto. Quindi ho cercato di, come dire, di far sì di formarmi per cercare poi di essere quella che sono io oggi. Ormai sono da 12 anni che sono responsabile di un servizio che è uno sportello trans, che è esattamente qua in Boifava, attaccati, e non sapevo di quest'altra parte di questo mondo, perché sono 12 anni che proprio ci passeggio in Boifava, però qui non lo conoscevo qui. E quindi, boh, nel senso che io appunto sono colei che appunto accoglie le persone come me in questo servizio, e nello stesso tempo, dal 2009 che sto all'interno di questa organizzazione che si occupa di prevenzione a 360 gradi, sono stata inserita come ruolo, come peer educator, all'interno di vari progetti di prevenzione HIV e malattia a trasmissione sessuale. E infatti io da appunto 12 anni che io una volta a settimana circa esco in strada con l'auto dell'organizzazione, andando nei luoghi dove ci sono le trans che si prostituiscono, per dare loro profilattici, somministrare i test a livello HIV, oppure, che ne so, offrire loro la possibilità di avere una consulenza sulla terapia ormonale, perché di solito le ragazze in strada fanno terapia ormonale fino a te. Io, per esempio, ho iniziato così. Oppure, che ne so, una consulenza legale, proprio perché appunto la maggior parte sono tutte straniere, quindi magari hanno bisogno di una consulenza sull'immigrazione, sull'asilo politico, nel caso nel loro paese sono perseguitate, oppure, che ne so, magari la possibilità di accedere ai servizi dove cerchiamo di organizzare degli accompagnamenti e facilitare gli accessi alle strutture sanitarie e sociali, laddove appunto poi la richiesta viene, ecco. Grazie. Dato che non voglio monopolizzare la conversazione, domande dal pubblico, curiosità, vi lascio il microfono aperto. Chi vuole iniziare? Eccoti, vieni qua perché... Allora, io ne approfitto per due domande. Una è legata anche un po' alla provenienza, nel senso che anch'io sono pugliese. La nostra regione comunque ad oggi è riconosciuta essere come una delle regioni che ha, diciamo, fatto tantissima campagna, tantissima protezione, tantissima promozione della cultura LGBTQIA+. Vorrei chiederti, già all'epoca ma anche oggi, quali sono le differenze che hai notato tra quello che era il territorio pugliese e quello lombardo? E poi un'altra domanda che invece riguarda più una questione legata alla transizione in sé. Io mi sono sempre chiesto, ed è una questione che credo che molte persone che comunque si identificano nel loro genere dovrebbero porsi, che cosa significa attraversare il genere con lo sguardo. Nel senso che siamo molto abituati a vivere il nostro corpo, il nostro genere, quindi a identificarci in uno sguardo che può essere quello maschile e quello femminile. E a me ha sempre interessato invece capire la condizione dell'attraversamento, che cosa implica poi nella percezione che abbiamo del mondo, perché credo che sia almeno per quello che è il mio sentire, è quasi una condizione invidiabile. Per quanto poi ovviamente con tutte le, come posso dire, le discussioni che si possono fare sulla condizione dell'attraversamento, che sicuramente oggi è, come posso dire, più facilitata, però Immagino bene sia stata anche dalla tua storia una condizione comunque che è passata da tanta sofferenza e da tanto dolore. E nulla, queste sono le due domande per ora. Faccio l'otta, sono domande difficili. Beh, domande che fanno riflettere, anzi, grazie, assolutamente. Ma guarda, sì, è vero, in Puglia diciamo che i tempi sono cambiati. Adesso c'è l'Arcigay Bat, Barletti Andriatrani, dove appunto io adesso come adesso, ormai da qualche anno, più o meno da 4-5 anni, anche più di 4-5 anni, e ogni volta che torno giù ormai mi conoscono chi sono, cosa faccio a Milano. Ho conosciuto il presidente che ha preceduto quello attuale e poi quello attuale, quindi ogni volta che vado giù poi sono loro a coinvolgermi, a dire ormai tu sei l'orgoglio di Bisceglie che sta a Milano, quindi c'è ovvio che comunque, cioè, se noi organizziamo un'iniziativa tu ci devi essere per forza, ma io ci sono con piacere, non per forza, non è un obbligo. Questo, cioè, vedo un cambiamento in questo, che anche a Bisceglie hanno cercato in qualche modo di cambiare le cose. Oddio, diciamo che la differenza, tu parli di differenza, è il nord e il nord, il sud e il sud, questo è sempre stato così, nel senso che nelle grandi città c'è una multiculturalità, una multietnicità, ci sono varie soggettività, varie identità straniere. Giù al sud diciamo che ancora oggi c'è questo cattolicesimo, mia mamma e la mia famiglia sono cattolici praticanti, io non lo sono. E diciamo che io mi sono allontanata dalla fede religiosa cattolica, nonostante io poi nella mia ricerca della mia identità ho scoperto che sono mezza ebrea per il cognome che porto, perché Monopoli, una volta gli ebrei davano il nome di città per depistarsi, e io sarei ebrea da parte di mio nonno, che non vale niente, perché appunto l'ebraismo sono matriarcali, non sono patriarcali. Quindi diciamo che hanno cercato di cambiare un po' le cose. Certo che comunque Luciano Lopopolo, il presidente attuale di Arcigay Barlet Bat, che adesso ormai gli ha fine mandato, anzi, quando lui si era eletto come presidente Arcigay nazionale, lancia la sentenza, disse: tu per me passerai sicuramente. Infatti poi è passato e faccio, beh, ci incontriamo a Bisceglie per fare festa. Devo dire appunto che nonostante lui ha cercato, lui ma anche quello che appunto ha preceduto, hanno cercato di cambiare la cultura a Bisceglie, però loro stessi comunque, vivendo giù a Bisceglie, diciamo che quel tessuto ce l'hanno proprio dentro del DNA, tessuto di cattolicesimo parlo, no? Di religione, cioè non vanno fuori, non vanno oltre, non riescono ad andare oltre, cioè loro sono molto credenti, sono. A me questa cosa un po' mi mette un po' a disagio, mi disturba un po' in effetti, perché non, cioè, proprio io sono colei che non segue nessuna disciplina religiosa, io lontano da me, proprio credo molto nell'esoterismo, questo sì, sono un'appassionata che coltiva la passione a livello individuale di questo mondo esoterico, mi piace molto, infatti ho lavorato per 5 anni in un call center di cartomanzia, di astrologia, ho fatto l'oroscopo al telefono tramite un progetto di Astra, E mi piace molto il simbolismo, i simboli, mi piace molto la numerologia, cioè sono molto appassionata, proprio, poi mi piacciono anche i film, faccio la ricerca di film di queste case abbandonate, mi piace molto, cioè tutto ciò che appunto è esoterismo. Io sono là attaccata, i miei occhi attaccati. L'altra domanda non mi ricordo. Ah, sì, giusto, sì, scusa, è venuto in mente. E spero che ti ho risposto alla prima domanda. Ok. Ma per la seconda domanda, beh, diciamo che la transizione per me, ma credo per tante persone come me, non è difficile, dico io, è molto complessa perché devi mettere in discussione molte cose, il tuo orientamento sessuale, le tue relazioni affettive, i tuoi rapporti con i genitori, con la famiglia, con i rapporti di lavoro, i rapporti di scuola e comunque, come dire, l'energia che appunto tu devi avere per affrontare ogni cosa e tante volte diciamo che chi fa questo attraversamento di questo passaggio diciamo che si trova anche senza forze, perché poi ogni cosa per noi è un sasso enorme, una montagna da scalare. Poi quando appunto la si affronta è tutto in discesa, cioè, beh, oh, posso respirare, però prima che arriva il momento di affrontare il datore di lavoro, affrontare i colleghi, anche perché poi una volta che tu inizi a fare il coming out, e lì ci sono persone che ti girano le spalle. Diciamo che la transizione è anche è un metodo di selezione per le persone che capisci quanto realmente ti vogliono bene. Allora, chi non ti vuole bene, allora si allontana, perché, no, perché sono contrari a quello che tu stai facendo, no? Si allontanano in maniera automatica. E chi invece ti vuole veramente bene bene sta al tuo fianco. I miei genitori, nonostante, come dicevo, loro sono cattolici praticanti, tutta la mia famiglia giù in meridione, noi quando ci incontriamo giù siamo 50 persone, perché poi c'è zii e prozii e cugini, procugini, cioè cugini secondo grado, cugini secondo grado, cioè siamo 50 persone e nonostante ciò devo dire che tutta la mia famiglia mi ha voluto bene e mi sta al mio fianco, anche tuttora, oddio. Magari c'è qualcuno che però poi cioè, si supera. E io diciamo che grazie alla mia transizione, attraversamento di generi, sono riuscita a rincontrare persone che le avevo perse un po' di vista, no? Infatti, quando vado giù a Bisceglie, che vado al mare e ho rincontrato in spiaggia persone che praticamente mi avevano conosciuto quando io avevo 7-8 anni, che loro dicevano: ma si vedeva quello che dovevi essere poi. Cioè, anzi, loro stesse che fanno, che vanno sempre sulla stessa spiaggia, già iniziano già adesso a chiedere alla mia mamma: ma quando viene tua figlia? Ma quando viene tua figlia? Perché ormai, cioè, sono di compagnia, cioè le signore appunto di Bisceglie, che appunto, cioè, sono lì appunto a chiacchierare, a sorridere, a scherzare. Però, come dire, è molto complesso perché ti ritrovi da solo o da sola a farti mille domande, a capire se la tua se quella è realmente il tuo percorso e se appunto magari puoi sbagliare. Allora appunto magari tenti, rifletti, Io sono colei che in tanti anni magari mi chiudevo dentro casa, anche tuttora lo faccio, quello è il mio mondo, il mio castello, e dove appunto nei momenti down mi rinchiudo dentro casa, proprio niente cellulare, niente computer, niente di niente, sono là a rimuginare su molte cose, perché io sono una persona che poi per ogni cosa, per ogni decisione della mia vita, sono colei che spacca il pelo in 300.000 pezzi prima di decidere quello che devo fare. E ogni volta che decido di fare quella cosa, quando l'ho fatta, mi dico tra me e me, perché poi mi rendo conto, di aver fatto la scelta giusta per me. Ho risposto? Io in realtà mi aggancio un po' a quello che hai detto ora. Prima raccontavi del fatto che ti sei trovata a far parte di un gruppo di persone gay e che a un certo punto ti sei resa conto di non essere, diciamo, rappresentata nella tua identità o che comunque eri qualcosa di diverso da quello. E io mi domandavo se in tutto questo percorso e questo cammino c'è stato proprio un momento, o se hai dei ricordi nitidi in cui ti sei guardata e detto: io sono Antonia. Cioè, qual è stato, se c'è stato un momento, e anche rispetto al nome, no? Qual è il percorso nella scelta? Perché immagino che ci voglia del tempo e sono molto... io purtroppo non ho ancora letto il libro, ma in realtà spesso poi mi domando in questo lungo percorso quante tappe ci siano, e questa la trovo una fondamentale, no? Riconoscersi e identificarsi anche nel nome. Volevo chiederti qual è il tuo percorso in questo. Sì, partendo appunto dal mio gruppo di appartenenza, questo gruppo gay che mi ha poi adottata come Olimpia, perché ero alta, olimpionica, è rimasto Olimpia per un bel po' di tempo. Poi quando io mi sono trasferita qua a Milano nel 94, proprio perché mi piaceva e mi piace tuttora il mondo dell'esoterismo, il mio primo nome era Morgana, perché non si sapeva se fosse una fata o una strega, e quindi dicevo: vabbè, io sono una bilancia come segno zodiacale, quindi sono sia fata che strega, volendo, no? Sono ambedue le cose. E poi Morgana mi sembrava un po' troppo forte, come perché per me era anche un modo per dire: io esisto. Ecco perché Morgana, no? Io esisto. Questa cosa appunto che non si sapeva se essere una fata e una strega, cioè per me era ancora di più significativo questo nome, quindi cioè, ecco perché Morgana. Poi a un certo punto, quando ho iniziato il lavoro di prostituzione, Morgana era per i clienti, quindi una maschera, una persona molto distaccata, una persona appunto che... quello era il mio lavoro, e infatti talmente distaccata che mi era fatta un portafoglio clienti di Miss Stress. Io ero con lei che i clienti venivano da me e mi chiedevano di essere frustati, di essere calpestati, di fare la padrona. E quindi per certi versi un po' associava un po' a questo nome Morgana. Però appunto nel mio privato, tra le mie amiche, Antonella, perché poi il mio nome di anagrafico non riuscivo a, come dire, a coniugarlo con la mia identità, perché portava con sé molta sofferenza e negavo a me stessa un accoglimento, un perdono per certi versi. Poi nel 2002, quando ho anche lì altra tappa, ho fatto un cambio radicale. 2002 per me è stato un anno veramente proprio di di vari cambiamenti. Ho cambiato casa e mi sono lasciato con il mio ex dopo 8 anni e mi sono avvicinata all'associazionismo, ho iniziato a, come dire, a fare volontariato presso le associazioni di trans di riferimento qua a Milano, ho iniziato a, come dire, a inserirmi nel mondo del lavoro, quindi molti cambiamenti che per certi versi è come se io mi sono poi riappropriata della mia identità, del mio nome, da Antonio Antonia. E un po' come se mi sono presa la mia vita in mano e ho detto, boh, adesso la conduco io come dico io. Un po' è come appunto dicevo prima, ho proprio abbracciato il mio Antonio, il mio bambino, no? Il mio essere bambino, e ho detto, no, adesso vieni con me, vieni. Cioè, da Antonio, Antonia, cambiare l'ultima vocale. Anche per semplificare un po' la mia famiglia, per certi versi, no? Perché tutti giù mi chiamavano Tonio, e un abbreviativo. E poi appunto Antonia, tutti mi chiamavano Antonia, anche se poi diciamo che anche lì è stata una situazione molto complessa, altra tappa, perché, come dire, per certi versi, io i primi 10 anni che sono stata qua a Milano tornavo giù, ma mia mamma diceva, no, quando vieni giù vestiti a maschio. E io ovviamente come facevo? Avevo la frangia, come ce l'ho adesso, i capelli lunghi fino al sedere, questa chioma di capelli lunghissimi, rossi, e i capezzoli che si vedevano perché iniziava a fare delle permonali e quindi si gonfiava la mammella, no? La sacca mammaria si gonfiava, cioè anche se toglievo il reggiseno comunque, cioè queste due come dire, spilli si vedevano, sì, esatto, cioè si vedevano, cioè evidenti erano, cioè non potevi appunto fare finta di nulla, anche perché poi la gente mi guardava, cioè invece di guardarmi in faccia guardava lì, cioè i miei parenti, no? Allora ovviamente, cioè, io ho cercato in qualche modo di assecondare i desideri di mia mamma. Perché mia mamma è stata un po' terribile, nel senso che ha combattuto. Più che altro, lei ha paura del giudizio della gente. Che dice la gente? Perché giù in Meridione c'è anche questa, no? E che dice la gente? Che deve dire la gente? Cioè, nel senso, la gente parla male, giudica male. Vabbè, lasciali parlare. Cioè, non c'è un cazzo da fare, scusa il termine, però è così. Appunto, 2005, quando io ho avuto la sentenza al tribunale come tale che io potevo fare l'intervento chirurgico sui genitali, anche io ho portato le perizie psichiatriche, perché all'epoca era così, adesso è cambiato, adesso, parlando di legge, no? E adesso è cambiato, no? Prima invece no, prima doveva avere questa legge, la 164-82, praticamente prima dovevi fare la richiesta per la rettifica chirurgica sessuale sui genitali e poi, avvenuto intervento, dovevi chiedere al tribunale la rettifica anagrafica, quindi sono due sentenze. Quindi c'è, diciamo che c'era il bisturi obbligatorio da parte dello Stato. Oggi come oggi non è più così, dal 2015 non è più così. Adesso appunto si può chiedere al tribunale la rettifica anagrafica senza l'intervento chirurgico, quindi passi avanti sono fatti, no? E quindi appunto io ho portato giù la sentenza, la documentazione, per dire appunto a mia mamma che io non sono malata, che sono una persona normalissima con tutti gli altri, non sono io cioè nell'errore, che appunto da oggi in poi, avevo detto, mi dovete chiamare al femminile, i pronomi sono importanti, e io ogni volta che vengo giù non devo avere una doppia identità. A Milano ho tutti gli indumenti femminili, quando vengo qua ho il borsone, gli indumenti maschili che devo fare appunto, cioè mi devo travestire da maschio, anche no, cioè. E quindi da lì appunto diciamo che le situazioni giù, ci sono state delle incomprensioni. I miei parenti dicevano: ma noi pensavamo che tu rimanevi gay, e altri invece mi hanno detto: ma noi vedevamo i cambiamenti, ma non affrontavamo mai la questione perché non sapevamo neanche noi come affrontarla. Se non eri tu ad affrontarla, noi non riuscivamo ad affrontarla, questa questione qua, perché anche perché come la affrontavi? Cioè, nel senso, non avevamo strumenti, no? E quindi, boh, poi dall'anno successivo, poi le cose sono cambiate, nel 2006 sono cambiate. Io, oggi come oggi, sono Antonia anche sui documenti, ormai da 10 anni, e quando vado giù è sempre una festa. È sempre una festa perché appunto poi giù si sa, no? Che quando vai giù ti invita la cugina a mangiare, ti invita il parente. Non ci vediamo mai, allora dici, vabbè. E ti fai tutte, diciamo, le case appunto dei parenti. Che è sempre bello comunque ritrovarsi, chiacchierare, parlare. I bambini poi crescono, mi riconoscono, sanno chi sono, tante persone, tanti parenti, ma anche persone magari che ho rincontrato sulla spiaggia, mi hanno chiesto amicizia su Facebook, perché ma posso seguirti? Perché no, ci mancherebbe. Ho le figlie delle mie cugine che loro hanno fatto la scuola di scienza ed educazione e loro tante volte mi hanno detto: guarda, io invidio il tuo lavoro, mi piacerebbe fare il tuo lavoro perché è veramente bello. Parlando di leggi, no? Allora, come dicevo prima, ho accennato prima legge 164-82, questa legge che è stata approvata nell'82 è stata approvata perché c'era un buco legislativo, però non ha mai detto, non dice che la persona deve obbligatoriamente intervenire chirurgicamente sui genitali per una rettifica anagrafica. E quindi diciamo che ci sono stati dei giudici, avvocati che hanno applicato la legge malissimo. Quindi c'era questa obbligatorietà. Anzi, tante persone sono andati al tribunale e dicevano: beh, se tu non fai l'intervento sotto, io non ti cambio il nome. Dal 2015 ci sono state due sentenze della Cassazione, della Corte Costituzionale, dove ha legittimato la legge, e quindi oggi come oggi diciamo che le due procedure si può fare in un'unica procedura in tribunale. Cioè le lunghezze burocratiche oggi come oggi sono di circa un anno, prima era un anno e mezzo, 2, quando aspettavi la sentenza, quando la posavi la richiesta, quando avevi la sentenza passava anche un anno e mezzo, 2 anni, io un anno e mezzo ho avuto la sentenza. Diciamo che ci sono state delle proposte, come appunto la proposta 405, che adesso appunto, adesso prima mi stavo un po' facendo un ripasso, però appunto ci sono state molte, molte proposte di legge, la piccola soluzione, la proposta 405, però appunto, come dire, non si è mai arrivati ad approvare queste proposte di legge, anche perché diciamo che la legge, la 164-82, è un pochino obsoleta. Se nell'82 era all'avanguardia, la seconda in Europa, oggi come oggi è obsoleta. Proprio ho letto proprio oggi un articolo che la Spagna ha approvato una legge che praticamente i ragazzini, i ragazzini di 16 anni possono andare in comune e dire che io mi voglio chiamare Priscilla, voglio chiamare Ugo, e che appunto, come dire, fanno una richiesta amministrativa per per rettificare il nome anagrafico. Già all'età di 16 anni, qui in Italia 16 anni può iniziare una transizione medicalizzata con il consenso di ambo i due genitori perché sei minorenni. Lo si può fare all'età di 18 anni, la transizione medicalizzata sarebbe quella in cui poi, come dire, c'è un percorso psicologico e poi di terapia ormonale, ecco perché medicalizzata. Perché questo termine? Perché ci sono molte altre realtà nella realtà. Diciamo che il termine transgender, oggi come oggi, è un termine da cappello, e dove appunto sotto questo cappello ci sono varie identità. Le persone trans non med, quindi non medicalizzate, le persone trans non med, non binary, quindi non binarie, oppure soltanto non binary, gender fluid, genere fluido, varie identità. Il termine transessuale è stato coniato nel 49 dal dottor Caldwell, però è più legato alla medicina, più legato alla psichiatria, perché prima veniva riconosciuto come una malattia mentale. Oggi come oggi, diciamo, non è più così. Anzi, diciamo che nel 2018, credo, è stata tolta l'OMS, ha tolto la disforia di genere dalle malattie mentali ed è stata inserita all'interno delle disfunzioni sessuali come incongruenza di genere. Diciamo che quindi i cambiamenti sono stati fatti. Proposta di legge, adesso vediamo, nel senso che si cerca anche lì, si sta cercando in tanti anni di vedere se si riesce a proporre una proposta di legge anche per far sì che, come dire, che le persone intersessuali che nascono con due sessi, di solito lì non decide la famiglia, ma decide il medico. Siccome viviamo in una binarietà di genere, quindi diciamo che il medico dice, dal sesso più predisposto adeguiamo il sesso appunto che è tra le gambe. Se per caso appunto, come dire, il nascituro è più predisposto al maschile, quindi si cerca un attimino di portarle, far intervenire chirurgicamente per portarlo al maschile e viceversa. Ma anche le persone intersessuali che nascono con due sessi, poi dopo anche loro dovrebbero fare terapia ormonale del, cioè del genere che poi hanno adeguato, ha scelto il medico. E quindi appunto anche lì, quindi bisognerebbe anche contemplare anche le persone trans non med, non binary, cioè diciamo che ci sono molte mancanze, solo che viviamo in una cultura dove l'anno scorso è stato affossato il DDL Zan, quindi facciamoci due domande e diamoci delle risposte. Io nel frattempo ho una domanda arrivata da un'ascoltatrice a casa, perciò la leggo così, perché ci sta ascoltando. Allora, ci chiede se hai da darci dei consigli per chi sta accanto a una persona in transizione. Ma bisogna... Intanto grazie per l'ascoltatrice. Si vede che appunto è interessante quello che sto dicendo, non sto dicendo fesserie, ma meno male, va. Dipende appunto, come dire, se la persona trans ha già fatto il coming out oppure no. Comunque il suggerimento a priori è ascoltarla, accompagnarla, a questa persona, perché è importante che la persona si senta, come dire, accolta, protetta, accudita, che non si senta da sola. Io più volte mi sono sentita sola e ho cercato io stessa poi di rimboccarmi le maniche e quindi, come dire, proprio perché appunto mi sono detta quello che è venuto a mancare a me, non vorrei che mancasse alle persone appunto come me, oggi come oggi, diciamo che ho poi questo innato di maternità, ecco. Ormai tutte le persone trans che accedono allo sportello mi consiglio come una mamma, che sono sempre stata attenta, attenta, mi raccomando, e fai così, fai cosà, faccio un po' da mamma. E infatti tanti genitori negli ultimi anni, 3-4 anni, ci sono molti genitori che mi hanno contattato perché vogliono una guida, vogliono, e io accolgo questi genitori anche più giovani di me. Io rivedo un po' quando io ero bambino, che mia mamma mi portava appunto da qualche professionista per avere strumenti. E loro stesse mi considero come una mamma spirituale, una guida spirituale. Esatto, esatto. Questa cosa l'ha detta anche persino il mio nipote. Il mio nipote ha avuto un problema sentimentale e si è avvicinato a me e l'ho aiutato moltissimo. E lui dice: la zia, meglio la zia che uno psichiatra, uno psicologo. E questo mi fa un grandissimo piacere, guarda, sì. E quindi sì, cercare appunto di stargli vicino, cercare di stargli vicino. Io dico sempre, né un passo avanti né un passo indietro, ma stare proprio al fianco, cercare di osservarlo, osservarla, dipende appunto poi dal transito, la persona, dovunque va, cercare appunto di seguirla, perché appunto, come dire, la persona si vuole sentire rassicurata per certi versi. Io sono colei che dico ai soggetti che vengono da me di prendere per mano i loro affetti e di accompagnarli in questo mondo che neanche loro conoscono, no? E quindi appunto che poi non è un mondo parallelo, ma è un mondo che è dentro nel mondo generale che però è lì. Se ci sono, a me era venuta un'osservazione, non so se qualcun altro, quando parlavi prima di DDL Zan, che comunque si è affossato un po' tutta la legislazione che è molto carente, secondo te le persone trans possono ancora, cioè possono, non ancora, possono portare conflitto nella società? Hanno questo, cioè devono avere questo ruolo proprio per difendere i propri diritti? Tu come la vedi? Come conflitto nel senso di lottare per le leggi, diciamo, che sono carenti, per il DDL Zan che non è stato approvato, in che modo possono, devono lottare secondo te? Vabbè. Sì, mi sei conto che l'ho detta male. No, vabbè. Perché, allora, diciamo che se una volta chi stava in prima linea erano spesso le donne trans, perché noi donne trans poi paghiamo uno scotto culturale, e perché, come dire, facciamo una transizione da maschile. Che è dal maschile, appunto, che ha un ruolo di primato in questa cultura patriarcale, a, come dire, ad avvicinarci poi a un genere femminile che è già di per sé un sottoposto all'uomo, no? Noi, appunto, donne trans, poi scendiamo all'ultimo gradino della scala sociale, e quindi poi per affermarci nel mondo del lavoro e nel mondo sociale, culturale, abbiamo fatto tanta fatica. Negli anni le cose sono cambiate. Se prima, diciamo che I fratelli, compagni, amici trans, chi fa il passaggio da femmina a maschio, come dire, non si volevano neanche avvicinare perché anche loro pagavano un po' questo scotto culturale, no? Perché dicevano, no, figuriamoci se io mi devo avvicinare a una donna trans perché quella là è una prostituta, eh. Eh sì. Adesso come adesso invece no, anzi sono loro stessi che hanno cercato poi negli anni di avvicinarsi, di essere al nostro fianco, anche in prima linea. E questo è bellissimo, è molto bello perché appunto, come dire, noi per certi versi ci sentiamo anche un po' accudite da parte di questi ragazzi, uomini, trans, che loro, come dire, ci difendono sulla tratta, adesso come adesso. E quindi oggi come oggi diciamo che mettere la faccia, agli eventi, raccontare, partecipare al Pride il 2 luglio, cioè il Pride qui a Milano, partecipare al Pride, mettere appunto l'energia, la passione, il desiderio, che poi tanti dicono che o almeno chi non partecipa al Pride, dicono che il Pride è una carnevalata, è un carnevale, eccetera, eccetera, no? Che viene visto male, però appunto io che sono ormai una veterana all'interno dei Pride, non è così, perché io poi vado a rivendicare il diritto al lavoro, che ancora oggi diciamo che si fa difficoltà ancora oggi a trovare una collocazione. Qualche tempo fa, 2021, a fine 2021, c'è stata una ragazza, una mia utente, che lei, nonostante, come dire, lavora in un'azienda di gioielleria, tra l'altro abbastanza rinomata. Lei girava con le buste paga in borsa e andava in agenzia per chiedere l'affitto di una casa perché doveva uscire fuori di casa in cui lei abitava. E praticamente, cioè, l'agenzia diceva, appena vediamo il documento, che non è conforme all'aspetto, no, per lei non c'è nessuno, mi spiace, non c'è nessuno. E questa qui girava con le buste paga e io ho cercato poi di aiutarla, ma non è la prima persona. E anche i ragazzi tante volte hanno delle discriminazioni. Io sto seguendo un uomo di 50 anni che è fuggito dalla Sicilia perché è perseguitato dalla sua famiglia, tra l'altro testimone di Geova, e quindi, come dire, cioè. Ho incontrato qualche tempo fa una ragazza congolese del Congo, una ragazza trans, tra l'altro che ha 20 anni. Lei è scappata dal suo paese perché lei era qui in Italia con sua mamma. Poi a un certo punto ha fatto il coming out. Cosa ha fatto? Con la scusa che sua nonna è venuta in Italia a prenderla per un viaggio al suo paese, quando è andata nel Congo, praticamente l'hanno rasata a zero i capelli, ha fatto violenza psicologica, violenza fisica, l'hanno proprio rinchiusa all'interno della casa nel Congo, lei è riuscita a scappare e a ritornare qui. Veramente poi cioè, queste situazioni ci sono ancora oggi. Quindi, cioè, come dire. Diciamo che manca una legislazione, manca una tutela. E Chloe, all'inizio abbiamo parlato di Chloe, si è appunto, come dire, questa assessora, che non mi ricordo come si chiama, ok, No, non ricordo neanche io, ma non so. ma l'abbiamo capito, eh? Donna Zanna, questa assessora alle pari opportunità, eccetera, che appunto cioè, ha parlato di Chloe sempre al maschile, sempre cioè, denigrandola, cioè dico io, ma cioè, io personalmente come persona in collaborazione con un mio amico che fa parte di Più Europa abbiamo lanciato una raccolta firme. E nel giro di 2 giorni mi ho raccolto 10.000 firme per far sì appunto che questa assessora si dimettesse, perché appunto cioè, non è possibile che, come dire, lei che è un'assessora delle pari opportunità, come dire, non riconosca Chloe come una donna, cioè, e non va bene, cioè, quindi ecco perché ci vogliono leggi, ci vogliono più tutele. E ogni anno il 20 di novembre c'è il TIDOR, il Transgender Day of Remembrance, dove si commemorano le vittime di transfobia durante l'anno. Come dire, vogliamo pure, come dire, festeggiare, non, come dire, non commemorare ogni anno queste vittime che poi di anno in anno crescono sempre più. Cioè, voglio una vita normale. Cioè, siamo persone con un cervello, con delle braccia, delle gambe, con dei progetti di famiglia. Cioè, ci sono molte coppie trans che appunto vogliono adottare figli. Cioè, io non capisco per quale motivo dobbiamo essere sempre catalogati come cittadini di serie B. Cioè, io pago le tasse. Cioè, anzi, se non le pagano, se non le pago, mi vengono a bussare alla porta. Cioè, nel senso, dico io, cioè, dato che appunto mi vengono a bussare alla porta, cioè, io busso, ma io le sfondo le porte, cioè, nel senso, cioè... Le ho sempre sfondate e le sfonderò sempre, finché, appunto, vuole, appunto... La mia vita comunque ne riesce a sfondarle. Poi vabbè, accanto a me appunto, come dicevo, ci sono persone, ragazzi, ragazze che si attivano, quindi benvengano queste nuove generazioni che cercano di aiutare chi li ha preceduti. Grazie, grazie mille. Questa frase me la segno, io non apro le porte ma le sfondo, mi piace. ce la segniamo. C'è qualche altra domanda, osservazione? No, mi sembra che abbiamo detto abbastanza. Sì, ce ne abbiamo avute tante. È stato bello chiacchierare con te dal divano di Zammo, ora dal divano rosso di Zammo. E niente, buona serata a tutte e a tutte, alle persone che ci ascoltano, e buona serata. Grazie. E grazie ancora a te, sì, lo so, che lei si girava, cioè lui si girava apposta, a te, ci sei, grazie.